lo vedi sì. Restiamo intrappolati sopra un beat, tra un drink, non abbiamo big dream, solo una vita che ricorda me te, ricordo che c'è la tua anima su di me. Rivivo con i frade, respiro le mie strade, qualche cosa cede, rinasce come il sole. Sono le parole che bruciano un liquore, che scorre nel mio sangue la mia vita sulle notte. Ricordo quei tempi, sì, quei giorni nei quali affrontavo i primi mali con gli altri animali, che mi chiedevano a che stavo pensando. Si rispondeva all'alcol con le bestie nella jungle. Per certi versi poi non mi è cambiato un cazzo, per altri versi un cazzo è cambiato tutto quanto. Ho perso il ritmo e non l'ho più rivisto, fanculo lo rimpiazzo col solito vecchio disco. È la mia Sassari, il fulcro di chi sogna una vita degna e non finire da carogna. Agli amici che con me vivono la stessa storia e che anche lontano sopravvive ancora. A chi non ha più i suoi risparmi e fa tardi tra grammi, ci va sotto senza troppi drammi. Però alla fine non ci sono solo sbagli, ci sono pure sbagli, ma sbagliamo tutti quanti. Tutto perché tutto fugge, o meglio lo trasforma un po', non è che lo distrugge. Ma se comprimo nostalgia in quantità elevata, d'altra parte guardo avanti e ho la vista offuscata. Tutti nella stessa barca, pronti a partire in quarta. Meglio se non se ne parla. Gira la ruota e non sarai tu a fermarla, perché continuerà a girare finché non si impalla. Il sangue amaro sulla bocca, lo vedi che non passa, e passa che ti passa, che finisci in una cassa. Una testa troppo piena, i secondi d'ogni sera, aspettando chissà cosa. Con la mia gente vera, gente che non spera, tanto qua non cambia, ma restano i sorrisi pure dentro questa gabbia. Classiche certezze che qua non dura niente, ok, evidentemente la tua mente ora è assente. Basta niente per sparire in un secondo, quindi resto giù pure col fiato sul collo. Perché si vive una volta, solo una volta, ed è questo che conta, del resto non ci importa. A chi ha chiuso la sua porta, a chi non ti guarda in faccia, chi ha perso tutto quanto nelle mani, solo sabbia. Scorre in mezzo al vento, a chi urla tuo suo lamento, a chi ha avuto tutto quanto e l'ha distrutto in un momento. Prova a guardare nel buio che avanza, prova a cambiare. Chiedi dalla vita, one love a questa gente qua, life story, big up a quelli buoni, tra amori e odi, morto che parla autentici, complicatamente semplici, semplici, restiamo i soliti. Ehi, ehi, you, you know, you know. MCP, Senka, Tazza Boia, Giuseppe Cuervo, Anna, Futta. Alla gente dei pompieri, chi resta in piedi nelle strade della Sassari City.